Essere e benessere di Nicoletta Carbone. L'avete presa o l'avete scampata? Parlo di influenza. Nel primo caso, com'è andata? Come sta andando? Nel secondo, come avete fatto? Vi siete vaccinati? Siete fortunati? Siete forti consumatori di agrumi e kiwi, che sono preziose fonti di vitamina C? L'influenza, conoscendovi, vi evita? Bene, non abbassiamo la guardia perché il picco è previsto a metà di febbraio. Nel frattempo, non sediamoci sugli allori, ma facciamo un po' di pulizia. Iniziamo dal naso. Ho un raffreddore, diciamo, perenne. Continuano a dirmi che andrà via, ma il naso non smette di colare. Sono la più disgustosa fontana del mondo. A volte queste cose si trascinano. Devi avere pazienza. No, non posso aspettare. Vediamo cosa si può fare per migliorare la situazione del signor Benton. Ha solo un raffreddore. Un bel lavaggio nasale. Noi teniamo i nostri pazienti. Lavaggio nasale? Da, prendi una siringa a bulbo, gli inietti una soluzione isotonica in una narice e vedrai che uscirà dall'altra. È incredibilmente benefica. Sciacqui e ripeti, sciacqui e ripeti. Eh sì, il lavaggio nasale è una delle più utili, anche se sottovalutata, tecniche di igiene personale che ci permette non solo di pulire e liberare le fosse nasali dalle secrezioni, ma mette la mucosa anche in grado di ripigliarsi e di svolgere e di tornare a svolgere bene i suoi compiti. Ingredienti occorrenti: un naso, ce l'abbiamo, una siringa, possibilmente senza ago, anzi assolutamente senza ago, un po' di acqua e una manciata di sale. Ma ci facciamo raccontare tutto dal professor Erus Sangiorgi. Buongiorno professore. Buongiorno. Docente di medicina naturale e del corso di perfezionamento di medicina termale all'Università di Milano. Noi siamo pronti, professore. Sì, è una pratica antica, quella del lavaggio del naso, non soltanto nella nostra tradizione europea, ma un po' in tutto anche l'Oriente. È molto semplice, nel senso che è consigliato usare del sale integrale marino, del sale grosso integrale marino, e un cucchiaio per mezzo litro di acqua rigorosamente tiepida. Sì. Cioè, l'acqua deve essere scaldata. Dopodiché, con una siringa, come diceva lei, oppure anche con una peretta, sì, inclinando leggermente la testa da una parte e quindi introducendo la siringa o il beccuccio della peretta in una narice, si fa uscire l'acqua dall'altra narice, per cui è indolore e estremamente pratico. Bisogna avere l'accortezza di usare almeno mezzo litro distribuito nelle due narici, non meno, perché se no non è efficace. Non è un buon lavaggio. Una o due volte al giorno. Professore, il lavaggio nasale si può anche fare con le acque termali. Ci sono delle indicazioni, certo, sulla scelta dell'acqua. Molte di queste acque si trovano anche in farmacia. Sì, ci aiuta, perché alcune acque hanno un'azione preventiva, possiamo dire così, esatto, altre invece sono più curative. Una distinzione, sì, molti centri termali, quasi tutti i centri termali hanno le acque, le due principali acque che si usano in tutte le patologie della otorinolaringoiatra, sia come prevenzione sia come trattamento, sono le acque sulfure, quelle che puzzano, che sanno di zolfo, sì, da uova marcio, e quelle che invece le acque salsobromo iodiche, che sono un po' acque salate, leggermente salate. Sì. Quindi l'unica indicazione per quel che riguarda le acque sulfure, vanno usate per brevi periodi. Infatti poi, se noi immaginiamo che le cure termali durano appunto due settimane, le acque sulfure vanno usate per periodi abbastanza brevi. Abbastanza tranquilli invece possono essere usate anche per lunghi periodi sono le acque salsobromo iodiche, che appunto, come diceva lei, possono essere acquistate in farmacia, entrambi i tipi di acqua, e sono molte le terme, tutte le terme dell'Emilia Romagna hanno sia l'acqua sulfurea che l'acqua salsobromo iodico, lo stesso le terme di Sirmione, lo stesso vale per le terme euganee, quindi direi che un po' in tutta Italia, quasi tutti i centri termali hanno la presenza di queste due quindi acque. Possiamo portare il nostro naso alle terme o in alternativa portare le terme dal nostro naso. Esatto. esattamente. Che dice, professore? Dico che è fondamentale, perché esistono delle prove di evidenza certe su tutte le patologie, tutte le sinusiti croniche, le riniti, ma anche le otiti catarrali trovano veramente un grande beneficio nella prevenzione, appunto, fatto e forse, professore, tenendo ben pulito il nostro naso allontaniamo anche il rischio di beccarci l'influenza. Assolutamente, perché mantenendo una buona mucosa nasale, la mucosa nasale fa da protezione per virus e batteri, per cui se noi la manteniamo bravo, con lì apposta. Un buon tropismo, certo. Come ricordava il professor San Giorgi, il lavaggio nasale ha origini molto antiche. Nella tradizione yoga c'è una pratica che insegna la pulizia delle fosse nasali. Sapete come si chiama? 800 24 00 24. Chiamatemi e raccontatemi per bene, ma potete anche scrivermi un messaggio al 349 238 6666 e scrivere anche la risposta sul nostro profilo Facebook. Abbiamo un libro per ciascuno di voi. Per il primo di ciascuno di voi. Professor San Giorgi, grazie per essere stato con noi. Le posso dire una cosa? Me ne dica due. Nell'Oriente la pulizia del naso non aveva soltanto il significato di mantenere pulita, ma serviva perché la respirazione è un elemento fondamentale della nostra vita, e per gli orientali le tecniche di respirazione erano fondamentali, per cui mantenere assolutamente integra la parte del naso era assolutamente una pratica che serviva anche per la meditazione, per fare una corretta respirazione e una corretta meditazione. Quindi avete avuto anche un aiuto in più per argomentare la vostra risposta. Grazie al professor San Giorgi, buonissima giornata. Ho naso mio, grosso promontorio che ricorda Portofino, colo antiestetico assai imponente. Adesso che ci siamo presi cura di lui, tira tutta un'altra aria. Chiudete la bocca e provate a respirare come si dovrebbe usando il naso. Poi chiamate il nostro numero verde, raccontateci come funziona il vostro naso, se fa bene il suo dovere, se respira bene, se l'aria passa senza difficoltà, se sente gli odori, se ha un luogo particolare in cui si trova meglio, se qualcosa lo irrita, lo fa gocciolare, chiudere e starnutire. Intanto in linea con noi do il benvenuto, anzi il bentornato al professor Marco Benazzo. Buongiorno professore. Buongiorno. Ordinario dell'Università degli Studi di Pavia, la clinica otorino laringoiatrica Fondazione San Matteo. Professor Benazzo, ci sono nasi che sono sempre un po' umidi, come i tartufi dei nostri cani, gocciolano come i rubinetti senza essere raffreddati. Come mai? Questo deve essere ricondotto all'anatomia e alla fisiologia del naso. Il naso sembra un organo semplice, ma è uno degli organi più complessi, perché nel naso esistono delle strutture che sono, diciamo, statiche, quindi che sono quelle che poi creano la struttura nasale, la piramide nasale, quindi il naso come si vede, ma soprattutto ci sono delle componenti dinamiche, quindi che sono sottoposte a tutti gli stimoli che arrivano dall'esterno. Non dimentichiamoci che dal naso passa l'aria, e nell'aria sono contenute solo varie sostanze, dipende dalla temperatura dell'aria, dipende da tutta una serie di situazioni, per cui queste strutture, che poi si chiamano fondamentalmente, sono i turbinati, reagiscono in modo vario e quindi hanno una fisiologia estremamente complessa, e quindi a volte il naso in determinate situazioni aumenta la secrezione, ma anche a scopo difensivo, per esempio nelle forme infiammatorie il naso si difende dai germi aumentando per esempio la secrezione. Altre volte invece il naso lo troviamo un naso asciutto, un naso secco, perché per altre situazioni il naso capisce, in qualche modo ha dei recettori, per cui è giusto in determinate situazioni avere un naso più asciutto. Quindi ognuno di noi ha un naso. Ha un naso. Si comporta un po' come vuole. Esattamente. Professore, allora proviamo un po' a testare il nostro naso, vediamo come se la cava in alcune situazioni, se supera la prova o se fallisce e perché. Allora, professore, se lei dovesse farci delle domande per capire un pochino, per non andare a naso, per capire come si comporta il nostro naso, se o quando, che cosa ci chiederebbe? innanzitutto se nell'arco della giornata cambia la respirazione nasale, cioè una persona capisce che in determinate situazioni cambia la respirazione nasale, perché il naso risente anche, per esempio, della posizione del corpo. Di notte il naso o le strutture che ci sono a livello nasale si comportano nella posizione da, diciamo, sdraiata, si comportano in modo diverso durante l'arco della giornata. Se nell'arco dell'anno ci sono dei periodi in cui il naso gocciola di più o il naso gocciola di meno, quindi se ci sono dei cambiamenti nella respirazione nasale. Per esempio, se un paziente, una domanda spesso che io rivolgo ai pazienti, ma lei ha prurito nel naso? Perché nel naso c'è anche la possibilità di avere il prurito, e questo è un sintomo, per esempio, che richiama alle allergie. Quindi questo per farvi capire che l'organo nasale, proprio per una sua conformazione particolare, ha una struttura e un'attività estremamente complessa, e purtroppo questo si ripercuote al fatto che ognuno di noi ha il suo naso, ma soprattutto che da un punto di vista terapeutico spesso le situazioni non sono facili da affrontare, quindi effettivamente bisogna fare molta attenzione. Questo naso è intrigante, professore, ed è anche un po' ficcanaso, perché se ci pensiamo, mette lo zampino in tanti disturbi. Quando abbiamo il raffreddore e il naso chiuso la notte, diventiamo rumorosi, russiamo, e potrebbe essere ancora il naso l'origine di quel dolore, ahimè, che si localizza sulla fronte, nelle zone sopra e sotto gli occhi, sulla mascella, fino ad assomigliare ad un mal di denti. E come se non bastasse, il naso ha anche una sua voce tipica, la voce nasale. Pinocchio, perché non sei andata a scuola? Stavo andando a scuola ed ho incontrato qualcuno. Davvero? Sì, due brutti mostri con gli occhi verdi. Oh, guarda, il mio naso! Cosa gli succede? Forse hai detto una bugia, Pinocchio. Vedi, Pinocchio, vi sono due specie di bugie. Alcune hanno le gambe corte, altre il naso lungo. Il naso ha anche tante virtù, oltre che funzioni. Ad esempio, non mente, sembra sincero. Infatti, oltre ad allungarsi, a volte prude. Ne parliamo con la dottoressa Maria Giovanna Luini, responsabile della comunicazione scientifica di IEO, Istituto Oncologico Europeo. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Allora, questo naso che prude, forse tradisce. Tradisce, in realtà dice la verità, perché a quanto pare quando diciamo una bugia, questa bugia fa sì che si liberino le catecolamine, in pratica l'adrenalina e la noradrenalina. Queste sostanze provocano nel naso il rigonfiamento dei tessuti interni. Il naso, così come accadeva a Pinocchio, si gonfia. Certo che noi non vediamo il gonfiore del naso dopo una bugia, però avvertiamo il prurito. Perché? Si liberano le catecolamine dopo la bugia, il sangue aumenta il proprio flusso nel naso e questo dà fastidio e crea prurito. Quindi attenzione quando qualcuno ci dice qualcosa, perché se si gratta il naso forse sta mentendo. Grazie dottoressa Luini per essere stata con noi, e quindi occhio anche al linguaggio del corpo. Se una persona si tocca ripetutamente il naso, prendiamo un po' le distanze, o almeno ascoltiamola per bene. Grazie, buona giornata. Grazie mille, buona giornata. Abbiamo in linea con noi Marco che ci chiama da Rimini. Buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno, salve, buongiorno. Io avevo questa perplessità, è diverso tempo che non soffro più né di raffreddore né mal di gola. Quindi questa è una bella cosa. Fortunatamente sì. Però come dicevo, diverso tempo che sento retronasalmente, diciamo, come se avessi del catarro. Non so, mi viene sempre da deglutire, come se dovessi praticamente togliermi questa sgradevole sensazione. Una specie di velatura. Professor Benazzo, ci sono infatti persone che si schiariscono spesso la voce. Sì, questo è un sintomo molto frequente, un sintomo che porta all'osservazione dello specialista parecchi pazienti. Bisogna considerare che la parte alta del naso è formata da quello che noi chiamiamo il labirinto etmoidale, cioè tutta una serie di piccole cellette che fanno, in cui passa l'aria, ma quando si creano delle secrezioni a livello di questa regione, queste secrezioni scendono a livello nasale. Nella parte anteriore, se scendono anteriormente, abbiamo il classico, diciamo, gocciolamento del naso, la tipica secrezione che viene al davanti. Sì. Ma purtroppo, molto spesso, per una questione di anatomia, questa secrezione si forma nella parte posteriore di questo labirinto e scende direttamente nel passaggio tra naso e gola, quindi questo signore probabilmente ha delle secrezioni che al posto di uscire anteriormente scendono posteriormente, ed è un sintomo fastidioso, un sintomo che non dà dolore, un sintomo che non dà nessun tipo di problema importante. Però è fastidioso. E come si può intervenire, professore? Beh, la prima cosa da fare è sicuramente ritornare a quello che abbiamo detto all'inizio dell'intrasmissione: i lavaggi nasali, o meglio, come li chiamo io, le irrigazioni nasali, sono fondamentali, perché proprio questo evita, cioè facilita proprio la pulizia del naso. Ovviamente va fatta una visita specialistica di tipo endoscopico, in modo tale che con l'endoscopio si va a visualizzare e a controllare questo tipo di regione. A volte si trova proprio questo muco, e poi se c'è la visualizzazione di questo disturbo, ovviamente bisogna ricorrere a terapie antibiotiche, terapie cortisoniche, terapie locali, per fare in modo che il flusso di aria ritorni a essere normale anche in questa zona abbastanza anfrattuosa del naso. Quindi sicuramente è un sintomo molto molto frequente questo. 800 24 00 24, naso dintorni. Pensate anche a come si comporta il naso durante la giornata, se di notte vi dà più fastidio, ma anche durante l'anno. Adesso abbiamo l'influenza che un pochino ci preoccupa, molti di noi l'hanno già fatta, altri come me sperano di scamparla. In effetti un po' io l'ho già fatta, perché mi è andata giù anche la voce, ma comunque. Essere e benessere. E noi siamo tornati. In linea con noi abbiamo il professor Marco Benazzo, ordinario all'Università degli Studi di Pavia, alla Clinica Otorino-Laringoiatrica Fondazione San Matteo. Ma in linea con noi abbiamo anche i nostri ascoltatori che ci stanno chiamando all'800 24 00 24. Dino dalla provincia di Roma, Marco da Genova e Roberta da Bergamo. Dino, buongiorno. Dino? Se n'è andato, ha portato il naso altrove. Marco da Genova, buongiorno. Buongiorno signora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Senta, il mio problema che voglio chiedere al professore è questo: io che mangio cibi freddi, caldi, speziati o non speziati, appena ho finito di pranzare incomincio a starnutire in modo esagerato anche 10-15 volte, mi succede quasi sempre. Volevo sapere di cosa si poteva trattare. E cosa si può fare, Marco? Di cosa soprattutto posso fare? Le premetto che io sono un fumatore, quindi non so, devo pensare tutte che possa. E certo, professor Benazzo, questi starnuti a raffica, devo dire che anch'io so bene di che cosa si tratta, perché al mattino io parto con 100 starnuti, poi dico soprattutto a Laura Vanossi che mi guarda come per dire ti sei presa il raffreddore, dico no, non attacco, però sono il mio naso. Che cosa succede, professore? Succede che nel naso si crea quella che viene definita una iperreattività nasale. Cioè in pratica ci sono nel naso, il naso è tappezzato da tutta una serie di recettori, di chemorecettori, che captano quelli che sono tutta una serie di determinate situazioni, e quella più frequente è il passaggio dalla posizione da sdraiata alla posizione in piedi, come succede la mattina, oppure come nel caso del signore esistono delle sostanze che sono, diciamo, particolarmente irritanti a livello nasale, perché poi qui probabilmente entreremo nelle problematiche dell'olfatto. Esistono delle vie di comunicazione tra olfatto e gusto, sì, e quindi probabilmente e queste sostanze irritano questi recettori e il naso, diciamo, si difende, se si può parlare, si può dire la parola difesa, si difende o reagisce avendo questa iperreattività, e quindi uno che è bella fastidiosa, ma non c'è altro da fare, professore, vero? Che la conosce bene anche lei? Beh, ovviamente, perché noi siamo abbastanza compagni di naso, esatto, professor Benazzo. Esatto. Vede? Io ho le scarpe, il ciabattino, che comunque, comunque bisogna sempre escludere che non ci sia un problema di allergia di base, perché la iperreattività nasale è l'anticamera dell'allergia, quindi si entra poi in un discorso più complesso, ecco, se gli starnuti sono solo la mattina probabilmente no, però ecco. Quindi non si può fare nulla. Un'anamnesi accurata è sempre importante di questi pazienti. Munirsi di fazzolettini. Certo. Dicevamo che una delle dei tra virgolette problemi, dicevamo che il naso è un po' un ficcanaso, mette lo zampino in tante situazioni e può cambiare anche la nostra voce, tanto che si parla di voce nasale. Silenzio! No, più di naso, te la sei scordata. Aspetta, aspetta un attimo, aspetta. Silenzio! Bene, procediamo pure l'appello. Amoroso Maria Rita! Presente! Aggiungere la professione, lo stato civile, tutti i traguardi raggiunti nella vita, anche quelli mancati. Ma chi ha una voce da paperino, una voce nasale, si deve rassegnare o la può modificare? Ve lo dico anche in rima, ma voglio presentarvi subito il professor Franco Fussi, foniatro, otorinolaringoiatra, responsabile del centro foniatrico di Ravenna. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta. Allora, questa voce che abbiamo sentito non era proprio una voce nasale, ci sono delle voci nasali che sono molto più caratteristiche, ma sicuramente sì, ci sono percezioni del timbro nasale che appunto vengono definite rinolalia. La rinolalia esiste un doppio tipo di rinolalia, una rinolalia detta aperta in cui c'è un aumento delle risonanze nasali, quindi sentiamo appunto la voce nasalizzata, un po' appunto alla Paperino, ma anche di tipo stilistico. Ci sono delle cause legate al fatto che il palato molle non si alza sufficientemente, quindi il suono va nel naso. Questo può essere per una forma patologica, una paralisi o problemi neurologici, ma può essere anche semplicemente un fatto disfunzionale legato a imitazione, a un errato modello linguistico, oppure a delle influenze dialettali, oppure a un deficit uditivo di controllo, e a volte diventa anche proprio una caratterizzazione stilistica, come in alcuni cantanti, pensiamo, non so, a Eros Ramazzotti, a Ornella Vanoni, in vario grado anche a volte Barbara Streisand o Etta Martin, oppure anche Anastasia, e sono appunto nasalizzazioni intenzionali a scopo stilistico. Invece esiste un altro tipo di nasalità che in realtà è una denasalità, si chiama rinolalia chiusa. In questo caso c'è una diminuzione delle risonanze nasali perché il naso è occupato da forme infiammatorie, come ad esempio quando abbiamo un raffreddore, oppure dagli adenoidi. Allora in questo caso non possiamo formare gli unici suoni nasali della nostra lingua, che sono la M e la N. In questo caso questi due suoni si traducono in B e D, e quindi il bambino che deve dire la mamma va dalla nonna, in realtà dice, o la persona raffreddata dice la babba va dalla dodda. In questo caso noi diciamo che è nasale, invece in realtà è denasale, perché gli unici due suoni della nostra lingua nasali, che sono la M e la N, non possono formarsi in quanto il naso è occupato appunto da adenoidi o da forme da raffreddamento. Come gli esercizi possono aiutarci a correggere una voce nasale a questo punto aperta? Sì, ovviamente quando abbiamo un deficit di funzione del palato molle abbiamo la possibilità di esercitare la funzione velare attraverso alcuni esercizi logopedici in cui utilizziamo ad esempio una mano davanti alla bocca e parliamo con la mano, con una pressione della mano sulla bocca, in maniera tale da stimolare l'elevatore del velo del palato, il muscolo che appunto innalza il palato molle. Oppure possiamo anche utilizzare delle manovre tipo la fase iniziale dello sbadiglio, quando noi sbadigliamo, quando noi pensiamo di avere una caramella di menta in bocca di cui vogliamo sentire la freschezza, abbiamo una attività di innalzamento del palato molle che appunto ci crea una maggiore oralità e una minore nasalità nell'emissione vocale. Quindi sono questi esercizi che possiamo fare e ripetere più volte in un giorno? Sicuramente, oltre a anche a fare alcuni esercizi logopedici con c'è per esempio una manovra del sorriso, no? Se noi sorridiamo, alziamo gli zigomi, aggrottiamo le ciglia, solleviamo le sopracciglia, abbiamo un'attività sincinetica anche di elevazione del palato molle, quindi facilitiamo la scomparsa della nasalizzazione. Tiriamo tutto su in pratica? Tiriamo tutto su in modo tale da escludere la cavità nasale dai fenomeni di risonanza legati al fatto appunto che l'onda sonora a questo punto passerà soltanto e quasi esclusivamente dalla cavità orale, tranne per i due fonemi M e N, in cui invece è necessario che il palato molle stia basso e quindi il suono entri nelle nostre cavità nasali. Quindi possiamo iniziare anche a sorridere per esercitarci. Esatto. Ed è una cosa. È Antonio da Novara, prima della viabilità, buongiorno. Buongiorno, grazie intanto. Io ho un piccolo problema, tutte le volte che telefono con qualcuno, comunque la maggior parte delle volte, mi sento chiedere dall'altra parte, chi sta dall'altra parte, ma è raffreddato? Oppure constatare semplicemente come è raffreddato. Ma il mio problema mi sembra dipende invece dai polpi, da questi turbinati, che tra l'altro sono di tipo allergico e che quindi anche togliendoli chirurgicamente non credo si risolva il problema. Poi ovviamente c'è il problema della moglie che di notte si lamenta sempre dei rumori che faccio, e siccome prima ho sentito semplicemente un intervento di lavaggio nasale, mi stavo chiedendo ma questo lavaggio nasale può aiutarmi a migliorare un po' la mia condizione oppure devo proprio intanto Antonio, come insegnava il professor Fussi, provi a parlare sorridendo. Professor Fussi, possiamo dare già questa prima indicazione, vero? Sì, ma in questo caso però non è un fatto di mancanza di attività velare, è proprio legato, come diciamo prima, il naso è occupato da qualcosa, in questo caso dall'ipertrofia dei turbinati, quindi abbiamo una denasalità, una tendenza da sentire questa voce leggermente ottusa, leggermente impastata nel naso, ma per effetto appunto di denasalizzazione, quindi i suoni nasali non si possono fermare, rimane tutto un po' dentro. Professor Fussi, grazie per essere stato con noi e per gli esercizi che ci ha consigliato, grazie, buona giornata. Buona giornata a lei. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e torniamo con il nostro naso, coi turbinati, ma parleremo anche di olfatto. Essere e benessere. Professor Venazzo, dai messaggi che arrivano al 349-238-6666 ho individuato quelli che secondo gli ascoltatori di Essere Benessere sono i, tra virgolette, problemi che, oppure le strutture che ci danno più problemi, che sono i turbinati, le adenoidi e i polipi. Sono loro che finiscono spesso sul banco degli imputati, accusati di far venire il raffreddore, di respirare male, di russare, di non sentire gli odori. Ma questi turbinati, come possiamo fare a farli stare bene, a non farli irritare, infiammare? I turbinati sono quelle strutture a cui mi riferivo all'inizio della puntata, che sono quelle strutture cosiddette dinamiche, quelle che per far capire ai pazienti sono la causa di tutta una serie di problematiche come quelle del signore di cui abbiamo appena sentito. Del signore sempre certo. Con la voce sempre da raffreddore. Il trattamento dei turbinati può avvenire due modi, in un trattamento medico e allo stato attuale i trattamenti più efficaci sono quegli spray ad uso di cortisone, non di vasocostrittori che sono dannosi, cortisonici per uso locale che riducono quella che è la cosiddetta iperattività nasale, quindi addormentano un po' l'attività. Gli dicono turbinati, state fermi un po' lì. Esattamente. Direi di non usare mai i cosiddetti vasocostrittori, quegli spray da banco che si comprano in farmacia, perché danno assuefazione, danno delle lesioni proprio della mucosa, quindi spesso chi mette questi spray ha delle epistassi. E secondo luogo volevo sottolineare che attualmente i turbinati, il trattamento chirurgico dei turbinati è un trattamento ambulatoriale, cioè nelle strutture come la mia, come le grosse strutture ormai hanno tutti i trattamenti laser, per cui ormai... Però sistemati una volta questi turbinati stanno bravi per il resto della vita o continuano, poi tornano ad alzare un po' la cresta? Dipende. Sicuramente il trattamento laser ha cambiato molto il comportamento di questi turbinati. Con il laser, trattamento ambulatoriale di pochi minuti, si riesce a decongestionare e poi soprattutto è ripetibile, nel senso che si può ripetere. E devo dire che tutto sommato l'esperienza dice che questi decongestione dei turbinati, quando i turbinati rispondono, vanno avanti per molto tempo. Però ecco, purtroppo i turbinati anche chirurgicamente non si possono togliere, quindi ogni tanto ci possono essere dei periodi di, diciamo, di ripresa di questa attività, certo, che poi magari puoi tenere sotto controllo con quegli spray al cortisone, ecco, e poi, certo, con tutte quelle procedure locali, dai lavaggi, anche le stesse cure termali possono avere un significato per ridurre la reattività nasale, ecco, quindi, ecco, ovviamente poi devi escludere che all'ipertrofia dei turbinati non ci sia associato per esempio i polipi, che è spesso una combinazione frequente tra polipi e vanno spesso a braccetto le due cose. L'ipertrofia dei turbinati spesso vuol dire allergia spesso vuol dire polipi, quindi è un po' un circolo, è un cerchio che si chiude, ecco, per cui bisogna sempre, in seguito a una visita dove c'è la diagnosi di ipertrofia dei turbinati, andare a controllare la presenza di polipi. Certo che dentro questo naso, che per quanto grande è sempre piccolo, ne succedono di cose. Dedicheremo una puntata intera invece all'olfatto, perché molti di voi me lo stanno chiedendo. Professor Benazzo, come si perde un po', no? Cioè la nostra capacità di sentire in qualche modo, no? Si diminuisce con il tempo, anche l'olfatto tende a perdere con gli anni i colpi, e si parla anche di inquinamento olfattivo, ma il tema è molto intrigante e ci torneremo, perché voglio dedicare il tempo adeguato a questo interessante tema. E vorrei invece dare la parola a Benedetta Spada, esperta di yoga e benessere, che è in linea con noi. Benedetta, ciao. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Allora, intanto noi abbiamo alcuni ascoltatori che hanno risposto alla nostra domanda: come si chiama la pratica yoga del lavaggio nasale? Una pratica molto antica che, come ci suggeriva il nostro ospite, il professor San Giorgi, veniva utilizzata per far sì che il naso potesse respirare adeguatamente, e quindi permettere anche la meditazione. Benedetta, tu non dire ancora il nome corretto, poi ci spiegherai. Abbiamo Sergio che ci chiama da Pordenone. Buongiorno Sergio. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Come si chiama la pratica? Allora, la pratica si chiama Nasia e fa parte del Panchakarma, che sarebbero le cinque azioni terapeutiche dell'Ayurveda, le cinque azioni depurative dell'Ayurveda, quindi dello yoga. Vediamo la nostra esperta che cosa dice, Benedetta. Allora, in questo caso noi parliamo di Yalaneti, dove andiamo ad attivare un processo di pulizia nasale molto semplice, un'attività che possiamo vivere ogni giorno quotidianamente per respirare. Quindi meglio. Il nome di Sergio non è corretto, diciamo, perché la tecnica si chiama, Benedetta? Yalaneti, e in linea con noi abbiamo Diana dalla provincia di Ferrara. Diana, buongiorno. Sì? Dalla buongiorno. Regia, ma mi dicono che lei ha infatti dato la risposta corretta, Yalaneti, che adesso Yalaneti, e riceverà a casa yoga dinamico facile proprio di Benedetta Spada, mentre la risposta esatta su Facebook riceverà i magnifici 20 di Marco Bianchi. E chi ci ha scritto il messaggio al 349-238-6666 con Yalaneti, il primo naturalmente, quello che ha battuto gli altri, l'aroma massaggio, gli oli essenziali per un'esperienza totale di benessere. Benedetta, allora, questo Yalaneti si fa come? Guarda, adesso ci sono molte, molte possibilità, possiamo usufruire non necessariamente di una cannulina per lavare una narice e l'altra, ma anche di una teiera, sì, di una piccola brocca che possiamo riempire con dell'acqua che abbiamo fatto scaldare, dell'acqua, certo, salata. Certo, quindi è un lavaggio nasale a tutti gli effetti. Esatto. Però esatto, per lo yoga ha proprio il vantaggio di permettere una respirazione, quindi noi sappiamo che nello yoga la respirazione è fondamentale, l'energia vitale. Grazie a Benedetta Spada. Professor Benazzo, grazie per essere stato con noi, per averci condotto a conoscere più da vicino il nostro naso e a prendercene cura. Buona giornata. Grazie. Buona giornata a voi che ci avete seguito. Come sempre io vi aspetto domani alle 11. Grazie a tutti.